salve a tutti cari amici, bentrovati dal vostro speaker vagabondo Fumino e benvenuti alla puntata numero 14 di Vagabondo in giro per il mondo. Oggi mercoledì 18 gennaio 2017 e sono a raccontarvi di un vagabondare un po' differente da quello che di solito vi racconto, che non è solamente il vagabondare del pensiero, il vagabondare della mente, ma è proprio stato un vagabondare fisico, reale, tangibile. E cosa è successo? Mi sono concesso alcuni giorni di riposo nella capitale, nella nostra capitale. Sono stato a Roma e devo dire che ne sono rimasto, come sempre, eccezionalmente colpito. Secondo me Roma è una delle città più possenti, più potenti che una persona può visitare. È molto bella Firenze, tutte le volte che mi capita di andare a Firenze ne resto magnificato, ne resto veramente attratto. Mi piace molto passeggiare per le strade del centro storico di Firenze e resto sempre a bocca aperta di fronte a tanta maestosità che c'è in giro. Però effettivamente Roma ha una marcia in più anche rispetto a Firenze, secondo me, o rispetto ad altre città italiane e anche non italiane che ho visto. E alla fine sì, è la culla un po' di tutto, è stato tutto o quasi tutto è partito da lì. È comunque è densa, è pregna di emozioni, e per una persona come me che quando viaggia farebbe a piedi il giro di ogni metro quadrato del centro storico della città che sta visitando, figuriamoci Roma, mi sono veramente divertito. Chiaramente nel passeggiare, nel vedere, nell'osservare persone e cose, mi è subito venuto alla mente il bel film di Paolo Sorrentino di qualche anno fa, La grande bellezza, che ha appunto nel suo leitmotiv, nel suo trait d'union, che l'ha portato addirittura poi a vincere l'Oscar come miglior film straniero. Dopo 15 anni ha riportato questo film, questo Oscar importantissimo in Italia. Bene, cosa ha che lega tutto? È ovviamente La grande bellezza, è Roma. Sorrentino ci presenta Roma in una sotto una veste, ci fa vedere chiaramente alcuni luoghi famosi, come ci può essere la Fontana di Trevi, come ci può essere Piazza Navona, e alcuni luoghi un po' meno famosi, come ad esempio il Palazzo delle Spade. Bene, essere a Roma, ma non sono andato a fare il tour della grande bellezza, anzi, ho scoperto in seguito che addirittura c'è chi organizza tour per turisti per visitare i luoghi della grande bellezza. No, tutt'altro, ho solamente ricollegato quello che ho visto, quello che ho vissuto, quello che ho sentito dentro, proprio nella pancia, a questo titolo, che secondo me è azzeccatissimo, perché devo dire che sì, Roma è una grande bellezza. Chiaramente, cosa succede allo specchio? Cosa c'è quando c'è una grande bellezza? C'è anche una grande bruttezza, e chiaramente io ho notato anche quella. E cosa è la grande bruttezza? Sì, chiaramente i musei, le statue, gli scorci, le viste mozzafiato dal Gianicolo, quelle sono tali e quali belle come ce l'ha descritto Sorrentino, come lo sono sempre stato. La grande bruttezza io l'ho un po' riscontrata magari a differenza delle ultime volte in cui ero stato nella capitale, ormai in effetti un po' di tempo fa, l'ho riscontrata, diciamo, nelle persone, nei modi di fare. E quindi sono qua a parlarvi di questo viaggio, questo vagabondare reale attraverso la capitale, attraverso la sua bellezza e attraverso la sua bruttezza. Probabilmente questa puntata del vagabondo, che simpaticamente al di là della grande bellezza chiamerei Profumi, Balocchi e Maritozzi, perché è un omaggio a un cantante romano, secondo me, che merita tanti omaggi, e vale a dire a Renato Zero. Questo è il titolo di una sua canzone molto simpatica, Maritozzi sono romani, quindi Profumi, Balocchi e Maritozzi. Nemmeno un maritozzo ho mangiato, sono stato a Roma un po' di giorni, non c'è stato verso di mangiare un maritozzo. A dire il vero, come succede spesso quando si fanno dei viaggi, parto proprio dall'inizio, pianifichiamo con il mio compagno il viaggio a Roma, e quindi nei giorni seguenti, magari nel parlare con gli amici, se cosa fate questo fine settimana? Sì, andiamo a Roma. Ah, a Roma, allora fate questo e fate quello. Chiaramente tipo il 95% dei consigli che ci sono arrivati, dei suggerimenti che ci sono arrivati riguardo alla capitale, erano rivolti alle cose da mangiare. E andate a mangiare da questo qui, è andato a mangiare da Gigi il Puzzone a Frascati, è andato a mangiare a Bacchio, è andato a mangiare a Carbonara e mica ora mi viene fa sta centro romano, no, chiaramente non è che uno va a giro in ferie e sta a mangiare tutto il giorno, e chiaramente c'è anche da mangiare, però tutti a consigliarci un sacco di cose da mangiare, oppure per fare un aperitivo, oppure per andare a bere. Noi chiaramente sì, tutti questi consigli li abbiamo accettati, però come succede quando facciamo delle previsioni, come succede spesso, le previsioni vengono disattese perché non c'entra una cosa, oppure fa freddo, oppure perdi un autobus, oppure ti viene un'idea, oppure mentre sei lì, mentre sei nel posto che vivi, succedono delle cose che ti portano altrove. Di conseguenza, anche questo è un consiglio che io do, che io cerco sempre di mantenere quando viaggio. Non fatevi aspettative, sì, una piccola roadmap per avere ben chiaro cosa fare o cosa non fare, però lasciatevi andare, godetevi il momento, godetevi il posto dove siete e seguitene i segnali. Bene, i segnali, detto questo, ci hanno portato da tutte altre parti rispetto a quello che ci avevano consigliato. Chiaramente non ho mangiato un maritozzo, non ho nemmeno mangiato un pezzo di baccalà fritto alla famosissima Filetti di Baccalà. Ci ho provato per 4 giorni di fila a mangiare il filetto di baccalà, l'ho sempre trovato chiuso e evidentemente non era il momento di mangiarsi il baccalà. La bellezza che offre Roma è agli occhi, però c'è anche la bruttezza. Cosa ho visto prima? Prima sono arrivato a contatto con una bruttezza, la bruttezza di certi modi di fare delle persone nelle metropolitane, ad esempio sui mezzi pubblici, la frenesia, la corsa, il dover andare sempre chissà dove, ognuno dalle sue parti, ma alla fine era un fine settimana, erano giorni festivi, non credo che ci fossero stati tantissimi impegni. Però ad esempio una cosa che è stata molto fastidiosa, ho cambiato dei mezzi pubblici, delle metropolitane, prima di arrivare dove dovevo arrivare, e cosa succedeva? Ogni volta si aprivano le porte ed io che dovevo uscire da una metropolitana, addirittura una volta sono stato ributtato dentro da delle persone che stavano salendo, ma no, come si potrebbe magari pensare, dei ragazzi maleducati o sfrontati o sboroni o chiamiamoli come vi pare, ma addirittura da delle signore che avranno avuto 60 anni con tutte le pellicce e tutta strabagata, tutte imbellettate, si apre la porta, m'hanno veramente ributtato dentro. A che gli ho detto: signore mie, per favore, prima fate uscire le persone. Alla fine c'erano tante persone che volevano uscire e questa cosa mi ha subito colpito, perché io non me la ricordavo così le persone di Roma. Tutte le volte che ero stato nei mezzi pubblici romani non mi era mai, veramente mai capitata una cosa del genere. L'altro giorno, per 2 volte di seguito, tutte e 2 le volte, e quindi mi ha lasciato un po' con l'amaro in bocca. Però chiaramente dov'è la bellezza? La bellezza è lì, esci alla tua fermata, metti il naso fuori, testa in su, e la prima cosa che ti appare davanti è il Colosseo. E lì respiri chiaramente un'aria magnifica, una cosa molto bella, contaminata chiaramente dai troppi turisti e dai troppi approfittatori di turisti, persone che ti vogliono portare di qui, di là, tour guidati, quello ti vuole vendere una cosa, quello ti vuole vendere un souvenir, quello ti vuole chiaramente ce ne sono tantissimi e sono fra virgolette anche un po' fastidiosi. Però il posto dove sei è magnifico, ti fai poi 2 passi vicino al Foro Augusto, al Foro Traiano e alla Colonna Traiana, è la magnificenza, è una cosa indescrivibile, e chiaramente questa è tanta bellezza. Poi Roma è bella in tantissime cose, cioè io ho visto dei palazzi molto molto belli, cioè palazzi semplicissimi che però ti fanno dire: e cavolo, tanta roba anche nelle cose semplici. Un palazzo che penso sia la prima volta che vedevo, oppure è la prima volta che realizzo di avercelo davanti. Qual è questo palazzo che mi ha veramente colpito? Nell'andare verso San Pietro, verso Via della Conciliazione, dove ho visto una cosa che poi non mi è piaciuta nemmeno più di tanto. Comunque, per andare verso questo posto si passa da un ponte e ci ritroviamo davanti al palazzo della Cassazione, cioè un tribunale che è un palazzo favoloso, cioè visto da lontano senza sapere cosa fosse, dicevamo ammazza che bello, cioè foto per immortalarlo, perché è veramente bellissimo, è una cosa allucinante. Poi avvicinandoci abbiamo visto che è il palazzo della Cassazione, appunto. E dicevo io, a mappa, però c'è gente che tutti i giorni viene qui a lavorare e viene qui a essere giudicata, magari, quindi per qualcuno bene, per qualcuno male, in questo posto che è veramente un fiore all'occhiello, è veramente bello. Cosa è successo nell'andare in Via della Conciliazione? Via della Conciliazione, come magari sapete, anzi probabilmente sapete, si va verso San Pietro. E cosa succede? Ci sono svariati, ahimè, senza tetto, barboni, chiamiamoli come più vi piace, che chiedono l'elemosina, e queste ci sono più o meno in ogni angolo di Roma. Tra l'altro Roma ho visto anche un discreto sudiciume in giro, ecco, a dir la verità non è assolutamente una città tenuta molto bene da questo punto di vista. Comunque, in Via della Conciliazione ho visto un sacco di barboni che avevano, oltre a, come si dice, alle elemosine, ai soldi che la gente gli lasciava, avevano i rosari, cioè la gente lasciava dei rosari a queste persone piuttosto che magari un euro o due. Ho subito pensato, per qualcuno fare una cosa del genere è probabilmente un aiuto più grosso che l'euro o i due, ma se il barbone ha fame chiaramente va a comprarsi qualsiasi cosa da mangiare, col rosario nessuno gliela dà e con un euro invece magari la sera riesce anche a mangiare. Bene, cari amici, anche per questa settimana la puntata del Vagabondo finisce qua. Tornerò la settimana prossima a continuare a raccontarvi della grande bellezza e della grande bellezza della città di Roma. Come sempre vi dico, cari amici, siate saggi!